Collo, i pantaloni bianchi, domenica mattina fresco per andare in chiesa. La tua raia si sorride, le facciamo un sorriso. DPG37 abbiamo crack, cocaina. Ho un crocifisso al collo, i pantaloni bianchi, domenica mattina fresco per andare in chiesa. La tua raia si sorride, le facciamo un sorriso. DPG37 abbiamo crack, cocaina. Ho un Gesù Cristo al collo, i pantaloni bianchi, catene d'oro bianco, troia bianco come l'altro bastardo di buon Natale. Diamo via pezzi gratis, curso sopra l'iPad, tre pezzi sopra l'iPhone. Non conosci la dark, no, quindi non parlarne. Le vuole avere un figlio ma ha soltanto 20 anni giovani. Parex, crack, baby, rocks, crack, fashion. I miei ragazzi volano come colombe nel cielo blu. Dammi un paio di Balmain, non fotto con quei ladus. Puoi chiamarmi Wayne Santana oppure giovane Bradley. Puoi beccarmi in giro 24 se servi. Se non mi trovi sull'iPhone cercami sul Blackberry. Laviamo soldi sporchi poi diventano liquidi. Fotti sette stronzi poi diventano limiti. Diamo crack, cocaina in primavera e in inverno. Al tuo funerale vestiti di bianco. Non ce ne frega un cazzo tanto andiamo all'inferno. Lo spendo questi soldi come se non ho tempo. Scopo queste tipe come se non le avessi. DPG 777 come mamma ci ha fatto. Postati sopra il petto, vita, morte e miracoli. Troia mi sorride, sa che faccio miracoli. Ho il paradiso in tasca, monumento sul pozzo. Oro sul mio collo, Papa Tony Bergoglio. Doppia G, doppia F, firme sulla mia cinta. Se passo di tasca e naso abbiamo crack, cocaina. Se passo lei mi sorride, le facciamo un sorriso. La chiamo stupida, poi la mando via. Pantaloni bianchi, fresco per il colloquio. Troia vuole me perché so quello che voglio. Troia vuole me perché ho 2 chili sul collo. Balmen, piavono soldi, giuro che ho perso il conto. Ho un crocifisso al collo, i pantaloni bianchi, domenica mattina fresco per andare in chiesa. La tua raia si sorride, le facciamo un sorriso. DPG37 abbiamo crack, cocaina. Ho un crocifisso al collo, i pantaloni bianchi, domenica mattina fresco per andare in chiesa. La tua raia si sorride, le facciamo un sorriso. DPG37 abbiamo crack, cocaina.